24 mattino. Roma, la situazione, io ho visto per esempio quando vedi il Colosseo che è deserto, lì si capisce tutto, proprio gli alberghi, ho una compagna che lavora in albergo, l'albergo è vuoto al centro di Roma, vicino Fontana di Trevi. Allora, io abito a Roma in periferia, il traffico è aumentato perché abito a Colle Salario e vado tutti i giorni a Porte di Roma, al centro commerciale, che comunque c'è poca gente, però insomma è tutto normale. Buongiorno a tutti, ma vi siete già dimenticati l'uscita di Conte sull'ospedale di Codogno o è sempre comunque colpa di quelli della destra? No, qua nessuno ha detto che è colpa di quelli della destra, per carità. Sull'ospedale di Codogno, con tutto il rispetto e col lavoro straordinario che stanno facendo in questi giorni, è ovviamente aperta la discussione, Non è che si è chiusa con quelle parole di Conte. Probabilmente Conte ha sbagliato ad attribuire la responsabilità in questo modo, così pubblicamente, però... Insomma, si metta sotto esame la procedura di un ospedale, a me sembra che sia perfettamente normale. Cioè che si ragioni se si è sbagliato e dove si è sbagliato. Poi attribuire le colpe così di botto è certamente stato un errore. Almeno a mio personalissimo giudizio, Sempre la siamo. E su Roma, ragazzi, mettetevi d'accordo. Ditemi se sei svuotata o se è piena. Seconda parte di 24 mattino, alle 7:20 minuti e 50 secondi di questo venerdì 6 marzo, la parte dedicata alla rassegna stampa, che però voglio aprire con delle scuse. Con delle scuse. Allora, ieri abbiamo letto un pezzo di Libero che in parte ho letto, un pezzo di Libero che in parte mi aveva divertito un po' per come era scritto e un po' per quello che raccontava. Quello che raccontava del deputato del Movimento 5 Stelle Iovino, che aveva presentato una mozione urgente per chiedere soldi per chi è affetto da alopecia. L'idea era un po' questa. Nel momento del Covid-19, dei problemi che hanno a che fare con il coronavirus, ci si occupa, Libero scriveva, dei pelati. In realtà non è esattamente così, e poi nel pezzo si spiegava, e lo abbiamo detto anche noi, si tratta di una malattia, l'alopecia lo è. Mi scrive stamattina un'ascoltatrice, dice: sono una donna affetta da alopecia areata, la malattia che ho da qualche anno si è trasformata in un'alopecia universale. Trovo inqualificabile la leggerezza con la quale avete trattato il tema. A prescindere da tutto, non avere peli nel volto, in tutto il corpo è devastante. Non sapete nemmeno quale impatto abbia questa malattia, sia a livello psicologico, sia sociale che economico. E tra l'altro c'è molta ignoranza in materia. Adesso l'emergenza nazionale è il coronavirus, ma trovo triste e offensivo trattare noi malati e le nostre battaglie con superficialità. Allora, se il tema è stato trattato con leggerezza, signora, cara ascoltatrice, me ne scuso, sinceramente. Dall'altra parte, che il Parlamento si occupi di questo tema, pur importante, in una fase così delicata, insomma, dal punto di vista sanitario, continua a lasciarmi perplesso. Detto ciò, insomma, la vostra battaglia è giusta ed è una battaglia da sostenere, e la ringrazio. Come vede, le critiche le accogliamo. Rassegna stampa dunque, con le prime pagine dei quotidiani, l'appello di Mattarella sul virus è il titolo un po' dappertutto, no? Sulla Stampa, l'unità e fiducia contro il virus, il Corriere della Sera, rispettate le nuove regole, niente ansia, uniti ce la faremo, riassume Repubblica, niente ansia ce la faremo, riassume anche il Messaggero. Altri titoli: Mattarella in campo, Conte dimezzato, il Giornale dà anche una lettura, insomma, diversa e più politica. Il Quotidiano Nazionale parla degli aiuti alle famiglie per la questione della scuola in apertura. Il Parlamento chiude, almeno non farà più danni, scrive Libero. Fiducia e serietà è il titolo di Avvenire. La Verità: l'azienda del primo focolaio europeo ha due sedi e 541 dipendenti in Italia. Si parla ovviamente di un'azienda tedesca. Pronto soccorso è il titolo del Manifesto. La foto è di Mattarella. Perché essere ottimisti e pessimisti, è il titolo del Fatto Quotidiano con un'intervista alla virologa Gismondo. Allarme imprese, 2 su 3 in difficoltà, scrive il Sole 24 Ore. E questo il quadro per quanto riguarda le prime pagine. Veniamo come sempre però a qualche, iniziamo da qualche argomento laterale. Proprio in ore nelle quali gli ospedali sono sotto pressione, sono in difficoltà, i medici vengono richiamati negli ospedali, insomma ci si cerca di attrezzare per fronteggiare una situazione difficile, complessa, ebbene le aggressioni ai medici proseguono. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi di quello che è successo dopo la morte di un quindicenne ucciso da un carabiniere dopo che aveva tentato di rapinare questo stesso carabiniere e della devastazione del pronto soccorso nel centro di Napoli. Oggi un'altra storia, la troviamo un po' su tutti i giornali, arriva da Polizzi Generosa, 3.000 anime nel Palermitano e riguarda una guardia medica, una donna di 27 anni, quindi evidentemente appena laureata, racconta cosa avvenne la sera del 26 febbraio nell'ambulatorio nel quale si apprestava a svolgere il turno. Il racconto lo prendiamo da pagina 16 del Quotidiano Nazionale, in compagnia dell'anziano padre che le teneva compagnia. Chiama un uomo in ambulatorio, dice, racconta Nino Femiani da Palermo, chiede una visita domiciliare per la moglie. Dalle risposte che dà l'uomo lei capisce che non si tratta di Covid-19, la signora aveva brividi e niente febbre, sintomi più o meno influenzali, ho avviato il triage telefonico, ossia il controllo telefonico di, appunto, di come potessero essere le cose, e poi dice, insomma, la visita domiciliare al momento non serve. L'uomo piomba nell'ambulatorio, inizia a inveire, sbatte i pugni contro la scrivania, interviene il padre della donna per smorzare i toni e lui lo spinge rompendogli 2 costole. E adesso dice, lo racconta in un'intervista al quotidiano La Repubblica, intervistata da Antonio Fraschilla a pagina 21, sono stata aggredita per una visita negata, mi dimetto, noi medici siamo troppo soli, e le parole sono queste: siamo in trincea del tutto soli, lo siamo da sempre, ma in un momento di tensione come questo in tutto il paese a causa del coronavirus tanti colleghi rischiano di essere aggrediti come lo sono stata io e anche mio padre che ha provato a difendermi, abbiamo bisogno di aiuto da parte del sistema sanitario, racconta appunto in un'intervista ad Antonio Fraschilla. Ieri ci siamo occupati della vicenda, l'avete sentita anche in GR, della donna che si era fatta di fatto abbindolare, aveva creduto ad una cartomante e in una fase di vera e propria follia aveva dato fuoco, col contributo di questa cartomante, di un suo complice, aveva dato fuoco alla casa, alla villa nella quale vive l'ex marito con la figlia. Tra l'altro, come si diceva, una famiglia borghese, lei farmacista, lui un medico, quindi gente anche istruita. Un'altra storia di truffe, violenze, un'altra storia di un guaritore, la peschiamo da pagina 17 della Stampa, testimonianza... Vuol dire che questi anni 2000, questo 2020 è ancora un anno nel quale si crede alla magia. A sentir lui, un pensionato 78enne di Forlì, racconta Franco Giubilei, nella sua casa santuario appena messa sotto sequestro dal giudice delle indagini preliminari si facevano sedute di pranoterapia e la domenica si pregava la pace nel mondo. Le accuse che gli vengono contestate dalla procura della città romagnola per quei comportamenti invece sono più pesanti: truffa aggravata, violenza sessuale, esercizio abusivo della professione medica ai danni delle persone che lo seguivano, persone emotivamente indebolite da lutti, da malattie o disagi psicologici, che in alcuni casi hanno subito anche per diversi anni il potere esercitato da questo cosiddetto guaritore. Cosa faceva? impartiva benedizioni praticando violente manipolazioni sui corpi dei pazienti, dolori, spasmi, crisi di vomito che venivano poi spiegati come segni della presenza di spiriti maligni. Ed era proprio in occasioni come queste che, sempre secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe molestato sessualmente alcuni adepti. La domenica faceva delle specie di messe, entrava in trance sostenendo di essere in contatto con la Madonna e con Padre Pio, e poi raccomandava ai suoi seguaci di non sottoporsi a cure o interventi chirurgici prescritti dai medici, perché appunto li avrebbe guariti lui. E adesso è finito in manette. Andiamo a un tema sul quale meritoriamente torna a venire, a pagina 19, con una lettera inviata dal Parco Verde di Caivano da Don Maurizio Patriciello, lo avete sentito nei giorni scorsi anche qua a Radio 24, sacerdote simbolo della periferia di Napoli. C'è un tema che ha a che fare con il Parco Verde di Caivano, che è lo spaccio. Su e giù, racconta Pino Ciociola, inviato a Caivano di Avvenire, pagina 19. Motopotenti e niente male, niente casco, niente preoccupazioni. Lavorano in pieno giorno, a cielo aperto, distribuiscono roba, guadagnano molto, rischiano nulla. Poi ci sono loro, i colleghi che restano a casa. I clienti bussano, entrano, lasciano soldi e prendono la roba. Veloce, pulito. Chiunque sa chi e dove sono. Si dice che il Parco Verde di Caivano, due passi da Napoli, ormai sia certamente la più grande piazza di spaccio d'Italia, forse d'Europa. Qui arrivano a fare la spesa da parecchie zone. Denari sporchi a palate, esentasse, facili, overdose gioventù bruciate pure. A muovere i fili, al solito, pensano i professionisti con auto di lusso, camicia, cravatta e computer, racconta Don Maurizio Patriciello, da 30 anni parroco del parco. Ed è qua appunto che c'è il racconto di Pino Ciociola su Avvenire. Prima di chiudere questa prima parte, insomma, altri due elementi. Allora, il primo è che in piena emergenza coronavirus, con le compagnie aeree che vanno verso la cassa integrazione, Ryanair avrebbe chiesto di adottare contratti di solidarietà per il personale italiano, Flybe, azienda, la compagnia regionale britannica che è fallita, inutile il cordone sanitario del governo, aerei che iniziano a viaggiare mezzi vuoti, ebbene che succede? Pagina 15 del Sole 24 Ore, Alitalia viene messa in vendita di nuovo. E si tenta la strada dello spezzatino. Bene lo racconta Gianni Dragoni, come sempre firma su questi temi. Il commissario Giuseppe Leogrande dà il via a una nuova procedura di vendita per Alitalia. Ha messo lo spezzatino. È il quarto tentativo di vendita da quando la compagnia è stata commissariata 34 mesi fa. L'avvocato Leogrande ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia, SAI, SPA e Alitalia Cityliner. La prima scadenza è mezzanotte del 18 marzo, entro questo termine vanno presentate le manifestazioni di interesse, e la scadenza poi della gara sarà a maggio. Ma chi se la comprerà Alitalia a questo punto? Francamente è difficile dirlo. Vi segnalo polemicone a chiudere questa prima parte, polemicone sul video di Achille Lauro che è stato pubblicato nei giorni scorsi, nei quali tra le altre cose c'è lui vestito da San Francesco in tonaca con sotto tutta una serie di persone nude o seminude che gli vanno vicino e tentano di toccarlo. Riccardo Iannello lo racconta sul Quotidiano Nazionale. Arrivano gli esorcisti che dicono che è blasfemo. Gli esorcisti intervengono sul video di Achille Lauro e insomma ne chiedono sostanzialmente la rimozione. Una pausa e poi veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, il coronavirus e tutto il resto. Mattino. Le 7, 38 minuti e 26 secondi. Molti di voi stanno scrivendo sul tema della vicenda di Conte, dell'ospedale di Codogno. Occhio, che non è che ho attribuito responsabilità all'ospedale di Codogno. Detto semplicemente che su questo, tra l'altro, sta indagando anche la magistratura. Non c'è nulla di male a pensare che che si possano rivedere e controllare alcune procedure ospedaliere. La questione è molto complessa perché ha a che fare anche con quelle che erano le direttive ministeriali, quando sono arrivate, come sono cambiate, quali erano le direttive della regione, quindi sarà molto da ricostruire. Ritengo che sia stato un errore, ripeto, mia opinione, da parte del Presidente del Consiglio metterla giù così dura e citare il caso singolo, perché là bisogna aspettare che cosa bisogna aspettare, vedere che cosa è successo dal punto di vista dei controlli, se sono saltate delle procedure oppure no, cioè si aspettano delle inchieste interne. Di qui a definire Conte, no, un atteggiamento criminale, quello di Conte, come ha fatto la Meloni, ne passa, insomma, ecco. Forse sarà una posizione un po' troppo equilibrata, vi chiedo scusa. Caro direttore Paolo Mieli, buongiorno, eccoci, eh. Però capisco che tu faccia queste riflessioni, anche se io continuo a suggerire questi conti si fanno alla fine. Appunto. E quando si arriva alla fine di una vicenda come questa che si può riattribuire, perché anche effettivamente il Presidente del Consiglio quel giorno fu improprio puntare il dito in qualsiasi modo contro l'ospedale di Codogno. Anche perché poteva sembrare una risposta al fatto che le regioni del nord furono le prime a lanciare un allarme adeguato quando il governo ancora non si rendeva conto o sembrava non rendersi conto dell'entità della crisi. Comunque, insomma, aspettiamo la fine anche noi. Esatto. A buttare benzina sul fuoco. E ieri, tanto più che ieri è stato un giorno drammaticissimo, perché al di là del contenuto dell'intervento del Presidente Mattarella, un contenuto impeccabile, ovviamente un discorso molto molto ben preparato che invitava all'unità, del resto cosa può dire un Presidente della Repubblica, è il fatto che compare all'improvviso, senza essere annunciato a reti pressoché unificate, un intervento del Capo dello Stato, una cosa che non era mai accaduta, io non ricordo, forse il capo dello Stato, l'allora capo dello Stato dopo l'11 settembre, però non mi ricordo, pure una volta che Scalfaro in piena Tangentopoli pronunciò il famoso discorso del non ci sto, insomma il presidente che compare all'improvviso in televisione dice più del contenuto del suo discorso. Cioè dici il fatto stesso che compaia in questo modo è simbolico di un momento molto molto difficile, insomma, per non esagerare quei termini. La prossima volta che comparirà un presidente sarà fra 10-20 anni, quindi vuol dire che siamo in una... che ieri è stata una giornata particolare. E in effetti ieri è stata una giornata che per aumento di casi, insomma, l'Italia continua a marciare, tutti i giornali pubblicano un diagramma, continua a marciare nelle zone alte dei contagi nel mondo, cioè è una degli unici quattro paesi che ne hanno più di 1000, l'Italia adesso sta a 3858, sì. Ed è al terzo posto, ha scavalcato l'Iran che ne ha 3513, questi ci sono ormai dei contatori mondiali, sì. Quindi ci atteniamo a dati che non sono fabbricati dalle redazioni dei giornali. Sì. Fra i paesi europei però in prima fila c'è la Germania, dove oggi si è scoperto che non a Codogno ma in Germania in Baviera sul primo virus, e cominciano ad esserci sui giornali. Sì. Giusto per chiarire agli ascoltatori, sulla base della ricostruzione genetica del virus sono riusciti a risalire a questo che probabilmente è il vero paziente 1, quello che poi, almeno teoricamente, stando alle ultime indicazioni, avrebbe portato il virus a Codogno, insomma nell'area dell'Odigiano. Questo è importantissimo, perché non è un gioco, una caccia al tesoro. Comunque, torniamo alla politica. Mattarella fiducia nell'unità, ora unità istituzionale e politica. Lina Palmerini, Sole 24 Ore. Conte, opposizioni, ancora scontro, il testo sul dialogo oggi in aula, Emilia Patta, scusatemi, sempre sul Sole 24 Ore, un editoriale di Giuseppe Lupo, perché serve più autorevolezza, insomma delle cose normali. Sì. Terza, zona rossa, pressing della Lombardia sul governo, racconta Sara Monaci. Sulla didattica a distanza abbiamo già detto tutto. Sì. Mi ha incuriosito vedere da milanese che negli alberghi milanesi ci sono le prime chiusure a Milano. C'è un meno 64,5% di occupazione delle camere sprenotate negli alberghi. La seconda città per camere sprenotate è Trieste, terza Venezia, sì, quarta Torino, Bologna, e si arriva giù, però ci sono camere sprenotate anche a Roma, Napoli, insomma sì. Camere, il fenomeno delle camere sprenotate agli alberghi, che vuol dire qualcosa, sì. Poi due imprese su tre già danneggiate dal coronavirus. Sì, è l'apertura del Sole 24 Ore questa, insomma, due su tre che sono già in difficoltà, e poi il focus è su alberghi, aeroporti, produzioni TV, nella fattispecie sono solo alcune, no, dei settori che vengono colpiti in questo momento dal punto di vista economico. Con il governo, lo raccontano Marco Rogari e Gianni Trovati a pagina 2, che stanzia 7 miliardi e mezzo con 6,3 in deficit chiesto all'Unione Europea per appunto provare a sostenere le imprese. Questo è il punto. Hai visto qualche altro spunto, Paolo, sul coronavirus? Molto importante che oggi c'è un allarme sud, non perché sia arrivato in modo devastante il virus, ma perché ci si rende conto che gli ospedali sono poco attrezzati, quindi tutti si preoccupano. Che è anche questo il motivo per cui sono state chiuse le scuole in tutto il paese e si sta provando a fermare il contagio, che, come racconta Paolo Gibrera su Repubblica, ma insomma c'è un po' su tutti i giornali, articolo di Riccardo Pellicetti sul Giornale, per esempio, che il Sud, se arriva nelle proporzioni in cui si è avuto in Lombardia, è un disastro. Sì. Poi sul piano internazionale la Corea ha più malati, noi molti più decessi, perché noi abbiamo scavalcato, come ti ho detto, stiamo correndo nelle classifiche, e questo perché negli altri paesi in classifica, i primi quattro che siamo noi, Cina, Corea e Iran, su questi paesi, soprattutto Corea e Iran, si ha il dubbio che i dati non siano quelli giusti, che diano. Sì. Quanto può durare? Può durare, l'epidemia non si può fermare, ma solo rallentare. Adesso si cominciano a fare i calcoli. Sì. I calcoli sono che questo stato annunciato fino al 15 marzo durerà in realtà fino a Pasqua. Cioè sì, probabilmente fino al 3 aprile. E questa è l'indicazione. Poi non è detto che si torni indietro, almeno che non ci siano notizie molto molto incoraggianti. Un segno positivo è che la Cina comincia ad avere notizie incoraggianti, ma la Cina ha preso dei provvedimenti che noi stiamo prendendo a fatica. La regione di Wuhan è grande come l'Italia, e la Cina ha messo praticamente la sua Italia tutta in quarantena, tutta, nel senso che avete visto i documentari, non si circolava per strada. C'è addirittura un'ipotesi di chiudere il Parlamento, che non è mai stato fatto neanche in tempo di guerra. Se ne occupa il Foglio, intervistando l'ex presidente del Senato Marcello Pera, che ricorda che neanche con l'influenza asiatica mai, e che Bertinotti, intervistato, dice che sarebbe da dementi. L'effetto virus fa esplodere gli ascolti Rai, ne parla e congela l'attuale vertice, cioè chi è beato per il virus sono i dirigenti della Rai, che rimangono al loro posto, dovrebbero sempre cambiare, e anche quelli radiofonici. Anche noi abbiamo, l'altro giorno chiedevo, scusa, adesso mi fermo, perché dobbiamo andare al traffico, I morti su questi primi 150, l'età media è di 81 anni. Sì, età media di 81 anni e praticamente quasi tutti con altre patologie. Traffico. Mattino. Veniamo ad altro. Paolo, inizierei e ti porterei a pagina 18 del Corriere della Sera. Facciamo tutto molto rapidamente, che abbiamo poco tempo. Alla tregua da mezzanotte a Idlib, raggiunta, come si dice, tra i due uomini che adesso hanno di fatto il controllo della Siria, che sono Erdogan e Putin. La notizia va letta tra le righe: è Putin che prende sempre più piede, diventa l'uomo importante di questa crisi. Quanto alla tregua, la parola tregua non significa niente, stanotte hanno ripreso gli scontri, sono come quando abbiamo seguito la crisi libica, no? Tregue una dietro l'altra, ma queste tregue vanno interpretate per chi stipula la tregua e Putin sarà sempre più centrale in questa crisi. Sicuramente, ti porterei, insomma, ci sono un po' di pagine, per così dire, in vista dell'8 marzo, no? In vista della festa internazionale dedicata alle donne. Ruoli di donne nella politica moderna. C'è Elizabeth Warren che lascia, ma che correva come candidata democratica. È una candidata molto di sinistra, tutti si aspettavano, ha danneggiato Sanders, ha danneggiato obiettivamente, nel senso che io non ancora tanti, sono molto molto molto adulto, non capisco la logica, o meglio la capisco bene, è una logica in cui tu corri non perché hai delle chance per diventare candidato, ma per danneggiare qualcun altro e o ritagliarti in margine di contrattazione. E la cosa che ha incuriosito i giornali americani, e io lo leggo però da un articolo di Sarge nel Corriere della Sera, che lascia ma non ha scelto Sanders, che è il candidato più vicino e che avrebbe bisogno quanto mai dei suoi delegati. Insomma, una mossa maligna contro Sanders. Sì. C'è questa storia un po' su tutti i giornali, la tratta un po' più a fondo il Corriere, mi pare, a pagina 22, la storia dell'emiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum degli Emirati Arabi. Rapì le figlie e minacciò la moglie, il giudice inguaia l'emiro di Dubai, no? La causa della principessa Haya, quella che era fuggita in Inghilterra, la storia forse qualcuno la ricorderà. Sì, sì, ma non sono storie di mondanità, perché la principessa è la sorella da parte di padre del re di Giordania, che si era rifugiata a Londra, e un giudice comincia a fare l'alta corte di Londra, ha pubblicato ieri questi documenti, e comincia a far luce su appunto questa causa tra l'emiro del Dubai e sua moglie, con i maltrattamenti, i rapimenti. Ed è un caso internazionale di costume, ma anche politico, diciamoci la verità, è un caso politico, anche sì. Perché il mondo che freme per la libertà della donna, per i maltrattamenti, così, in genere, voglio notare, quando questi maltrattamenti avvengono nei paesi arabi, paesi con i quali abbiamo affari in piedi, così si ferma, si distrae e guarda altrove. Da qualche altra parte. Non c'è grande attenzione alla sorte della donna in questo mondo, ce n'è poco. Allora, a proposito di casi, per così dire, che mescolano la politica, che hanno a che fare con le donne, in questo caso in un ruolo in realtà di compagna dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, pagina 20 della Repubblica, parla la Pascale: Berlusconi mi ha trattata da regina, perché liquidarmi così? Il tema dell'ex cavaliere che ha trovato una nuova fiamma, deputata di 30 anni. Ma sale il livello politico, perché la nuova fiamma è una deputata, si chiama Marta Fascina, e la cosa che ha fatto inviperire la Pascale non è pettegolezza, perché innanzitutto lode a Berlusconi che gestisce in pubblico i suoi affari di cuore, non si nasconde, fa pubblicare da giornali le sue foto, ma la cosa che ha fatto uscire dai gangheri la Pascale, che pure ringrazia, è che si è fatta fotografare la Fascina con Dudù, col cane Dudù. Ah, irritantissimo, certo. che portava a spasso il cane di Dudu, e ha fatto emettere un comunicato alla Pascale dicendo: ma è una vergogna, una deputata. Ah, no, una vergogna no, perché devo dire sì, che ha un tratto ironico particolare, lo sto notando. La Pascale, tra l'altro, la Pascale ultimamente aveva messo in grande imbarazzo Berlusconi, perché aveva fatto delle dichiarazioni contro Salvini addirittura offensive nei confronti di Salvini, cioè ha preso una parte politica nel dibattito della destra. E comunque ieri Vittorio Sgarbi ha rivelato che secondo lui questa storia con la fascina andava avanti da molto tempo. Allora dobbiamo veramente chiudere, quindi te la do io la notizia sui reali, Paolo. Siamo a pagina 16 di Libero e apprendiamo che la regina d'Inghilterra, a proposito di grandi donne, mette tutte le sue case, sue non proprio tutte, non proprio tutte, alcune proprietà ad Edimburgo in Scozia, di proprietà della sovrana britannica, ristrutturate dal principe Carlo, che se ne è occupato personalmente, vanno su Airbnb. Brava. Un'esperienza. Senti, visto reale, che ci sei, allora segnaliamo anche sulla stessa pagina un articolo sul fatto che il cinema discrimina le donne molto più delle aziende. Sembra un articolo di Francesca D'Angelo. Le attrici vengono pagate la metà rispetto ai colleghi uomini. Pazzesco. Grazie. Pagate di più le attrici. Grazie Paolo Mieri anche per oggi. Ci risentiamo lunedì. GR24, tra poco con Maria Latella parleremo delle famiglie, alle prese con i figli, la chiusura delle scuole e via dicendo, e poi anche di musei, turismo, tra poco.